Manifesto di Julian Rosenfeld. Ne parliamo con Dario Bonazzelli di A Wonder Pictures, che lo distribuirà. Dario, ben ritrovato. Ben ritrovati tutti, buongiorno. Tutto bene? Molto molto bene, direi. Siamo in mezzo a tanti fuochi come i Wonder Pictures. Ora stiamo lanciando nelle sale per un evento speciale questo capolavoro. Senti, come viene fuori questo film? Che cosa ci dici della sua genesi? Manifesto è innanzitutto un'opera d'arte, nel sì. senso che Manifesto è proprio un'installazione ad opera di Julian Rosenfeld, che nella vita fa l'artista. Per questo film si è anche poi, diciamo, inventato regista, che ha portato nei principali musei di tutto il mondo nell'arco degli ultimi 2 anni. È un'installazione che ha avuto un enorme successo, dove appunto Cate Blanchett è stata ripresa e ha vestito 13 ruoli diversi, composti con un assemblaggio video e un'installazione particolare, dalle quale poi è scaturita l'idea di costruirci un film, chiamiamolo documentario, di questa opera d'arte. Lascerei poi al giudizio del pubblico che lo vedrà. Nel complesso è un'opera importante, è un'opera che travalica ogni genere, è difficilmente classificabile. È un'opera in cui una stessa attrice, credo sia un record nella storia del cinema, interpreta stesso viso, stesse sembianze, sempre lei, sempre Cate Blanchett, ben 13 ruoli differenti, che percorrono il mondo dell'arte e non solo, appunto andando a delineare, diciamo, leggendo tra le righe del film, ed è questo il compito più bello dello spettatore, i manifesti della storia, per cui dal manifesto dadaista a tutti i manifesti che nell'arco della storia dell'arte sono stati in qualche modo resi noti, resi celebri o meno. E questo è il gioco più interessante. Io, da spettatore prima di tutto, che è quello che sono rispetto ai titoli, ai Wonder Pictures che portiamo poi nelle sale, è questo che suggerisco a fare. Chiunque sia appassionato di arte, vada a vedere il film, troverà un pezzetto di se stesso, un pezzetto di una storia che vuole ricercare, un pezzetto di appunto un manifesto che sono tutti celati o bene o male dentro il film. Andarli a riconoscere è sicuramente una piccola curiosità molto molto divertente. Sì. Manifesto, proseguo Federico, so che mi stavo interrompendo, ma se vuoi io vado avanti tanto. Solo per sottolineare che infatti a Kate abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana, con una foto di scena con lei in mano la marionetta della barbona che interpreta. Sì, è la prima parte del film in cui appunto si addentra in un luogo post-apocalittico, sembra, dove appunto lei in quel caso ha le sembianze di un barbone, ma è talmente bella che anche da barbone rende benissimo. Dario, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi come sempre. Ciao, ciao, ciao.